Capitolo 10. Bagna i fiori e aspettami. 10 marzo 2019, deserto del nord. Incontro, nei cammini del villaggio silenzioso del deserto, dei nuovi amici. Lunghe le chiacchierate tra i pirati della vita. Condividono le stesse paure che ho io, di mettere radici e di ritrovarmi poi, un giorno, a sognare sempre lo stesso sogno. Anime inquiete, cacciatori di avventure, nel costante tentativo di dimenticare il dolore del mondo. I futuri possibili brillano come i sogni fatti di stelle cadenti nelle notti senza luna. Vedo la me stessa del presente, seduta su quella panchina fuori dall'unico negozio polveroso con questi nuovi amici, chiacchierando. Si sente il sibilo lontano che si trasforma lentamente nel respiro affannoso del treno merci, quello delle 4 del pomeriggio. I bambini lo rincorrono ridendo e gridando, mentre l'aria scompiglia loro i capelli ed anche i sorrisi. Ci sono i tre cani che mi aspettano, annoiati e distesi tra la polvere. La negrita è incinta e mi segue tra i cammini dei cactus con la sua grande pancia che sobbalza quando le sembra di vedere un serpente. I tre sono sempre felici di accompagnarmi nel mio girovagare tra le strade segrete di questo grande deserto del nord. Ma poi i pensieri ritornano sulla realtà, che esiste proprio al di fuori di questa bolla spazio-temporale, delle prossime guerre e delle sicure catastrofi. La realtà della vita irreale che le persone condividono nella grande rete di sorrisi posticci. Lontano da tutto questo, sto cercando lentamente di far sparire la mia presenza dalle reti sociali. Già sono cosciente che non funzionerà. Troppe password dimenticate, blog aperti e mai chiusi, email importantissime alle quali non ho più accesso. Siamo stati infettati da questo virus da molto più tempo di quanto possiamo immaginare. Educati dallo schermo televisivo, siamo passati al PC ed ora al Black Mirror, secondo un'evoluzione verso l'uomo capsula digitale. Nel prossimo futuro, tutti, ma proprio tutti, ricorderanno che è sempre stato così. Come quando muoiono i partigiani nelle case di riposo e si riscrive la storia d'Italia. Io non ricordo, ma dicono che è andata proprio così, come lo scrivono nei libri di storia e lo dicono alla televisione. E come è stato pubblicato nella santissima rete di internet. Già, un costante gaslighting, che approfitta dell'effetto Mandela e della paura dell'ignoto. Una manipolazione psicologica che vorrebbe eliminare dalla terra tutto quello che risulta superfluo o inutile. Questa volta sembra che l'essere umano sia la causa della sua stessa possibile estinzione. Non che mi dispiace estinguermi. Ho vissuto abbastanza da poter vedere il mondo che finisce. Ed io con lui. Nel deserto ho ricevuto risposte alle domande che ancora non sapevo di avere. I cani mi seguono e mi aprono il cammino tra i cactus. Condivido con loro l'acqua della bottiglia e poi restiamo per lungo tempo, distesi sotto all'unico albero della pianura infinita, a guardare le nuvole rincorrersi tra i rami. Mi ha scritto mio fidanzato che domani scende dalle montagne. March 14, 2019, deserto del nord. Cado. Mi rialzo, vado avanti. Il successo di questo rapporto di coppia è proprio dietro all'angolo. Ma io vedo solo una strada dritta che finisce in un abisso oscuro. Lontano, dei buoni propositi di fare le cose fatte bene, ci incontriamo e poi ci scontriamo. Quando sembra che non si possa continuare assieme, che tutto è finito, compro una vocale e vado avanti. 15 marzo 2019. Tutto sbagliato, tutto da rifare. L'ordine che era stato costruito si rompe in mille pezzi. Io non mi arrabbio, non urlo e non faccio la matta, ma è come vorrei reagire con lui. La lista delle cose che non vanno bene in questa relazione si sta facendo molto più lunga del previsto. E i fatti di ogni giorno fanno poi ribollire tutti gli altri, quelli già stagnanti da un tempo immemore. quelle piccolezze che si possono dimenticare, ma che poi si trasformano in montagne quando meno ce l'aspettiamo. Lasciare tutto per scappare con lui, per poi passare le serate a guardare stupidi video in rete dopo aver cucinato la cena e lavato anche i piatti. Questo è ciò che riserva il futuro spettacolare che sto costruendo con quest'uomo. Corre, corre, Benedito, corre, corre, Benedito, corre, corre, Benedito. Ciao, fate il pirlo, Non mi fanno ridere gli scherzi, neanche in città, corre, pensa corre, qua. Benedito, corre, corre, Benedito. Corre, corre, Benedito, corre, corre, para Benedito. Giuseppe, se sono retti non li voglio vedere, mi fanno schifo. Non sopporti i serpenti. Cos'è? Peyote. L'avevi visto? Ah, tipo un... come una pianta grassa, come un cactus. Sì, solo che allucinogena. Intanto è naturale. Pensa che alcuni popoli qui pensano che sia sacro. Poi non è mica facile da trovare. Chi l'ha trovato? Lui ha trovato... cioè, tu non puoi cercarlo, non puoi trovarlo. È lui che sceglie te. Cioè il peyote ha trovato voi. No, ti dico solo che peyote vuol dire carne degli dèi. Hombres y mujeres con espejos van siguiéndote el rastro, venadito azul. Corre, corre, venadito, corre, corre para Viricuta y yo no en ello. 20 marzo 2019. Deserto del Nord. Dicono che i morti ti appaiono in sogno giusto prima di lasciare del tutto il proprio corpo fisico. Ieri sera ero caduta in un sonno profondo, fatto di sogni lucidi. Appare faccia d'angelo, con il suo enorme sorriso di denti storti e bianchissimi, quello con cui mi aveva invitato a ballare cumbia sulla spiaggia la notte di festa in cui ci siamo conosciuti. Dicono sia stato un regolamento di conti. Il Civo era stato avvisato, doveva andarsene, lontano, sparire e non lasciare nemmeno il suo ricordo. E quindi erano mesi che i due non uscivano di casa e non si facevano vedere per le strade del centro. Ieri pomeriggio hanno deciso di sfidare la sorte e di andare a fare surf in una spiaggia vicina. La foto l'ho vista nella grande rete. Si vede faccia d'angelo che quasi sorride, con mezzo corpo fuori dall'auto, nuotando in una chiazza di sangue. Sorride proprio a lei, la Santa Muerte, alla quale mi diceva di essere molto devoto e che sempre, sempre lo avrebbe protetto. Li aspettavano al ritorno, giusto all'entrata del villaggio. Morti, sulla via principale, di fronte al piccolo supermercato e agli occhi della gente che stava comprando un'altra birra gelata. Morti per un colpo di pistola. In quest'ultimo anno c'erano state tutte le possibilità che le loro vite cambiassero. Quelle fidanzate straniere, innamorate, che hanno procurato loro i documenti perché potessero vivere altre vite possibili, lontano dal paradiso. Ma a loro non era piaciuto. Già, raccogliere ciliegie non è un gioco per chi si sente un boss della malavita. Quindi i due sono ritornati al paradiso, a testa alta e direttamente nella bocca del leone. Dicono che sono stati dei sicari, contrattati da un'altra famiglia del posto per cambiare gli equilibri del potere. Io credo che siamo stati tutti noi ad ucciderli, un'intera comunità che è rimasta in silenzio per troppo tempo. Le lacrime mi scendono, bruciano. Mi ricordano che è arrivato il momento di ritornare nel paradiso.